Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba. Buonasera cari amiche e cari amici, questa sera parliamo della prima prova narrativa di una famosa giornalista appartenente a un'illustre dinastia di giornalisti italiani, cioè Ludina Barzini, che si cimenta con una contrastata ma irreprimibile passione nel libro Solo Amore, pubblicato da Bompiani, 264 pagine, 13 euro. Qui troviamo una ragazza milanese, espressione della buona borghesia meneghina, che viene portata dal caso a Palermo, all'ospedale, dove conoscerà un giovane medico che, dopo alcune peripezie, la condurrà all'altare. Ma l'unione non sarà felice, sarà anche funestata da eventi drammatici che ben presto contribuiranno alla rottura della coppia. Ma il fuoco cova sotto la cenere e gli anni faranno giustizia. Ma non mi inolto nella trama, naturalmente, per non rovinarvi il gusto di immergervi nelle pagine del libro, del quale adesso parliamo con l'autrice. Buonasera a Ludina Barzini. Buonasera. Ludina Barzini, questa storia fra Lucrezia e Gianni dimostra che l'amore non è soltanto passione, può anche essere una forma di persecuzione. Ah, non c'è dubbio, io penso che l'amore ha molte forme, molte vesti, molti abiti e molte sfaccettature, in positivo ma ahimè anche in negativo. E lei perché ha scelto questa sfaccettatura così fosca in questa storia? Perché Lucrezia aveva solo 19 anni quando dal nord e dalle nebbie milanesi si è trovata per un puro caso della vita a Palermo e ha scoperto il sole, il buon umore, la gente che parla, che schiamazza, il contrario di Milano. E lei si è innamorata di Gianni, che allora non aveva tinte fosche, le tinte fosche sono arrivate dopo. E questa ragazzina gli sembrava vero di aver scoperto una gioia di vivere che non conosceva. A proposito delle tinte fosche, appunto, il caso interviene spesso nelle vicende di Lucrezia, con conseguenze spesso nefaste. Allora, in questo ritorno del caso, delle coincidenze negative, c'è una reminiscenza quasi classica, quasi mitologica. Sì, è vero, perché in fondo in questo primo romanzo che ho voluto scrivere, Solo amore, ci sono tre temi di fondo che sono stati quelli che mi hanno ispirato e su quale io ho poi costruito la storia. E uno dei temi è appunto nord-sud, perché io che sono una ragazza, non più tanto ragazza, ma comunque ragazza del nord, di famiglia nordica, nata a Milano, ho sempre sentito, per esempio, mia madre che diceva che l'Italia si fermava a Bologna, cioè una specie di pregiudizio contro il sud. Ma altrettanto quando poi sono andata al sud, perché mio padre invece era intrigato dalla Sicilia, mi ha portato a fare un viaggio quando ero ragazzina in Sicilia, c'era anche la diffidenza del sud nei confronti del nord e questi ritornelli che sentivo le ho voluti sviluppare in una storia. L'altra cosa della vita di tutti noi, perché è nelle vite umane i casi e le strane circostanze sono piene, è pieno nelle nostre vite di, a volte uno le fa vedere, a volte uno non le fa vedere, si ritrova e dice oddio com'è che sono arrivata qua, perché sono là e così via. E questo è l'altro tema, le strane circostanze che portano al positivo come anche al negativo talvolta, o perlomeno portano a sbarellare un attimo. E la terza, diciamo il terzo tema, vediamo se lei lo individua. Beh, ce ne sono tanti, sicuramente c'è il rapporto difficile con i genitori, c'è questa rottura col marito e c'è naturalmente il carattere anche un po' omertoso che viene fuori dalla città che ormai Lucrezia deve frequentare. Beh sì, ecco perché il carattere omertoso di cui lei a 19 anni non sapeva neanche dell'esistenza, lei non ha saputo vedere quello che forse non si poteva neanche vedere a quel momento, perché come ben lei ha detto, le strane circostanze che si sono susseguite nella Lucrezia hanno anche colpito Gianni, e Gianni ha fatto una svolta a 360 gradi dopo una strana circostanza, e questo per lei era imprevedibile, e lui ha come preso un'altra strada nella vita, una strada che lo ha allontanato da Lucrezia. Ma la terza, il terzo tema che volevo affrontare era quello che tutto sommato nella vita delle persone molte cose succedono, e uno, soprattutto i primi amori, gli amori famigli, pensa di averli sepolti per sempre, e poi succede qualcosa che può essere un profumo, una musica, qualche cosa che li riporta a galla. Insomma, non ci avevo azzeccato. Chi? No, io. No, ci ha azzeccato. Mi sono avvicinato. No, come non ci ha azzeccato? Ci ha azzeccato benissimo. Però in fondo lei alla fine dice era come un fiume carsico che lavorava dentro di lei, perché lei poi ritrova Gianni tanti anni dopo. E in fondo le emozioni che uno pensa di rimuovere, tutto sommato, forse non si rimuovono del tutto. Ma fra i due, Gianni e Lucrezia, chi ama di più l'altro partner? Ma probabilmente si amano entrambi in modo, tant'è vero che anche dopo tanti anni lui le dichiara il suo amore. In fondo lui l'ha amata tutta la vita, non ha saputo amarla, ma dentro di sé l'ha amata. E lei lo ha amato in modo giovanile, l'ha scoperta dell'uomo, del suo uomo, è diventata donna ed è un amore, se vuole, più giovanile, più immaturo quello di Lucrezia, e mentre Gianni aveva 9 anni più di Lucrezia e quindi era più maturo, però non, forse nessuno dei due ha saputo coniugare l'amore. E in questo, in fondo, il romanzo dimostra di non essere anacronistico, nel senso che la storia è ambientata alla fine degli anni 60, appunto, lo leggiamo ancora come se fosse una storia molto appassionante di oggi, nel senso che la sensibilità diversa, le conquiste del femminismo, eccetera, però, insomma, sono tutte anticipate in questo suo romanzo. Beh sì, perché Lucrezia, in fondo, è una ragazza autonoma che cerca sempre la propria autonomia rispetto alla famiglia, rispetto anche, non capisce bene il matrimonio, questa costrizione, perché poi si sposano e vanno a vivere in questa città della suburbia americana che è Bethesda, e lei è ridotta a ruolo di moglie, nel senso che sta a casa, pulisce la casa, fa da mangiare ed è lì e fa la donna di casa, cosa che da ragazzina non gli avevano molto insegnato a fare quel mestiere, e poi da sposa si ritrova subito in quel ruolo e in fondo si ribella anche un po', dice ma insomma che cos'è questa vita qua? In fondo se vogliamo le storie dei sentimenti non hanno età, questo è secondo me. Come oggi, come ieri, le donne amano, gli uomini si sposano, anche le donne sono le mogli, si emancipano, vanno a lavorare. Allora cercavano, forse era più difficile, ma il pensiero nel sottofondo di una giovane ragazza che voleva essere autonoma c'era anche negli anni 60. Non hanno tempo e non hanno luogo. Lei ricordava l'ambientazione siciliana che prende molte pagine nel suo libro, Palermo. Palermo è veramente una protagonista di questo libro, non è semplicemente uno sfondo, una quinta. No, certo che no, è protagonista in quanto è una città importante, è la città della famiglia di Gianni, è la città di Gianni, è la città nel quale in fondo Lucrezia si realizza in un certo senso, e contro il volere anche della sua famiglia. Lei testardamente ha deciso di optare per la vita a Palermo, per vivere a Palermo, perché è incantata dal mare, dal sole, ma anche dalla cultura, dai miscugli culturali che ci sono a Palermo. Insomma, è un altro mondo rispetto a quello del nord, che è molto più lineare in un certo senso. Lei è incantata e protagonista è Palermo, protagonista è anche in un certo senso l'America, perché quell'America degli anni 60 era molto diversa. Adesso tutto il mondo si assomiglia, ma allora era molto diverso da quello da cui lei proveniva. E la vive in un modo anche interessante e passionale, cerca di conoscere persone, assiste a una sorta per la campagna elettorale di un vicepresidente degli Stati Uniti, si immerge, diciamo, in questa realtà americana, che secondo me anche quello è un altro mondo che lei scopre. Bene, grazie a Ludina Barzini, autrice di Solo Amore. Buona serata. Grazie Salvatore, arrivederci. Restiamo in Sicilia con una delle glorie letterarie più importanti dell'isola, e cioè Giovanni Verga, al quale è dedicata la biografia che ha scritto Gabriella Alfieri, che insegna all'Università di Catania, che è appunto la città del grande scrittore. È pubblicato da Salerno questo libro, 362 pagine, 18 euro. Verga fu un autore di importanza internazionale, come sappiamo, per essere stato uno dei capiscuola del verismo, e dunque è già stato molto studiato. Allora, a che cosa serve una nuova biografia? La ragione, spiega l'autrice, è che in realtà di Verga si può ancora offrire un profilo inedito, proprio partendo dallo sperimentalismo nel quale Verga si esercitò, e che permette di leggere le sue opere e di percepire il suo linguaggio sotto una luce diversa da quelle tradizionali con le quali si legge Verga a scuola. Perciò è particolarmente interessante e originale l'analisi che nel libro viene fatta della fortuna critica di Verga, di come fu letto e interpretato dai suoi contemporanei, oltre che lo studio del linguaggio di Verga, che nasce iperletterario, dominato dal profilo tipico dei veristi meridionali, che, ci spiega l'autrice, indulgevano a un linguaggio basato sul dialetto di sostrato, italiano regionale, toscano libresco, latino scolastico e francese letterario, un linguaggio che poi invece si evolverà in una lingua molto più vicina al parlato, che diventerà caratteristica delle ultime grandi opere di Giovanni Verga. Ci interrompiamo per un attimo e ci sentiamo fra pochi istanti. Voi due siete superficiali, sciocchi, il simbolo di una vita sprecata. Oscar, ce l'ha con te questo? Ma no, ce l'ha con no, te, no, ce l'ha con te. Ma non è vero, dai. Allora, ce l'ha con tutti e due. Ah, sì. Dal lunedì al venerdì alle 8:15 su Radio 24. C'è Attenti a Noi Due. Che poi siamo noi due, Oscar noi Giannino due. E Alessandro Milan. Non perdetevelo su Radio 24 dalle 8:15 lunedì e venerdì. Attenti a Noi Due. Ascoltaci anche in digital radio. Un libro tira l'altro. Ben ritrovati con Salvatore Carruba. Parlavamo prima di Giovanni Verga. Se Giovanni Verga fosse ancora a Milano, una città dove lo scrittore visse a lungo, che amò e apprezzò proprio per la ricchezza della vita culturale che vi si svolgeva, certamente avrebbe frequentato il salotto di Anna Crespi. Anna Crespi è una rappresentante della buona società milanese, ma soprattutto di quella sensibilità per il volontariato in campo culturale di cui la stessa Crespi è una riconosciuta rappresentante, avendo fondato l'associazione Amici della Scala. Nella sua associazione Anna Crespi organizza incontri, dibattiti, confronti con gli esponenti della cultura, soprattutto musicale e letteraria, ed è una testimonianza di questa ricca e lunga attività troviamo nel libro Esercizi di conversazione, interviste con i protagonisti della cultura e dell'arte, che è pubblicato da Ponte alle Grazie, 208 pagine, 18 euro. Il libro raccoglie gli incontri con alcuni dei personaggi passati dal salotto di Anna Crespi, e la quale introduce la raccolta con un'intervista a se stessa. E qui si chiede, domanda, perché intervisti le persone? Risposte, perché mi piace entrare nell'animo altrui. Domanda, come fai a entrare nell'animo altrui? Risposta, faccio una domanda e insisto nel domandare fino a far parte della vita di chi sto intervistando. E qui la verifica di questo metodo, che permette di scoprire o riscoprire molti aspetti segreti di tanti intellettuali, tra i quali, e questo è forse l'incontro più toccante, quello che chiude il libro, e cioè quello fra Umberto Eco, che da Anna Crespi incontrò il musicista russo Alexander Raskatov. Raskatov confessò a Eco di considerarlo lo scrittore più importante per lui, mentre Eco, su domanda di Raskatov, confidò di prediligere tra i musicisti antichi Frédéric Chopin. E su Chopin vi segnalo il libro scritto da un altro gigante della musica, Franz Liszt, che pochi mesi dopo la morte di Chopin, che era avvenuta nel 1849, scrisse un appassionato volumetto sul grande compositore, che si intitola appunto Chopin e che viene riproposto adesso da Castelvecchi, 142 pagine, 16,50 euro, tradotto da Luisa Moscardini e introdotto da un altro grande pianista, Michele Campanella, che abbiamo sentito nel piccolo brano che ha introdotto questo libro. Nel libro Campanella, nella prefazione, sottolinea il giudizio di Liszt per Chopin, un giudizio che non corrispondeva, pare, al giudizio molto più severo del polacco nei suoi confronti, mentre Liszt appunto qui non lesina le lodi nei confronti del grande musicista e pianista. Praticamente contemporanea a questo libro è quello di un altro protagonista della musica dell'Ottocento, Richard Wagner, che nel 1851 pubblicò Opera e Dramma, quello che avrebbe dovuto essere la sintesi della teoria musicale di Wagner. L'opera era apparsa in 3 tomi, fu poi ripubblicata, salvo poi essere quasi ripudiata dall'autore negli anni successivi. Wagner prese le distanze da quest'opera, che rimane però fondamentale per comprendere la sua teoria e il suo pensiero sull'opera d'arte teatrale. E quest'opera è importante per capire Wagner, è riproposta adesso dalla casa editrice Astrolabio a cura di Maurizio Gianni, 314 pagine, 29 euro. E restiamo in ambito musicale, ma andiamo un po' più indietro nel tempo con un altro protagonista assoluto, Wolfgang Amadeus Mozart. Segnalo il libro di un importante musicologo, Sandro Cappelletto, che ha scritto I quartetti per archi di Mozart alla ricerca di un'armonia possibile, pubblicato dal Saggiatore, 268 pagine, 22 euro. I quartetti di Mozart sono tra le opere più importanti, se si può fare una gerarchia nelle opere di Mozart, e fra l'altro in questa stagione sono stati eseguiti integralmente, i quartetti sono 23, a Milano a cura della Società del Quartetto. E proprio in questa occasione è uscito questo libro che si rivolge a tutti, è scritto in linguaggio molto piano, comprensibile ma appassionato. Mozart cominciò a scrivere i suoi quartetti proprio a Milano, anzi, per essere precisi, a Lodi. E sappiamo dal manoscritto di quest'opera non soltanto la data e il luogo in cui quel primo quartetto, il quartetto K80, fu scritto, ma l'ora nella quale il giovanotto, aveva allora 14 anni, cominciò a scrivere questo brano. Perché tanta precisione? Perché sentì il bisogno Mozart di scrivere anche l'ora nella quale aveva cominciato, aveva preso la penna per scrivere il quartetto? Ce lo spiega lo stesso Cappelletto in queste righe. Alle 7 di sera, prima di cena. Una tale dettagliata precisione, luogo, anno, mese, giorno, ora, è unica in tutto il catalogo mozartiano. E può significare soltanto una cosa. Tutti e due, figlio e padre, erano consapevoli dell'importanza di quel lavoro e soddisfatti del suo esito. Il 15 di marzo 1770 nascono i primi 3 dei 4 movimenti del quartetto. Alle 7 di sera, dopo una giornata così faticosa, neppure il più esigente dei genitori avrebbe potuto pretendere dal proprio figlio che si sedesse al tavolino a studiare, a fare i compiti. L'idea venuta dal ragazzo deve essere stata impellente, non rinviabile, da mettere su carta subito, senza alcuna richiesta, senza alcun destinatario in attesa. Magari gli sarà arrivata repentina in carrozza durante il viaggio, come a volte capitava. Ma in carrozza, tra i continui sballottamenti, era impossibile scrivere musica. In ogni caso, è soltanto per la propria soddisfazione che quella sera a Lodi, Mozart inizia a comporre il suo primo quartetto. La mano è sicura, pochi i ripensamenti. Gli abbellimenti, le appoggiature, i trilli, le notazioni utili a vivacizzare l'esecuzione, sono opera del padre. E a questo punto... Il confettino. Vi segnalo per i più giovani futuri ascoltatori Il flauto magico nella serie Le storie dell'opera di Fiorella Colombo e Laura Di Biase, illustrato da Silvia Bonanni, Vallardi, 46 pagine, 14 euro. La storia dell'opera di Mozart viene riportata alla sua natura di fiaba incantata col richiamo alle aree più significative dell'opera, che possono poi essere ascoltate nel sito della collana. E quindi questo è un'ottima opportunità per accostarsi alla musica classica, all'opera e a Mozart. E adesso torniamo alla musica d'oggi. Questo è Ennio Morricone, prodigioso 88enne, che conversa con Alessandro De Rosa nel libro Inseguendo quel suono, La mia musica, la mia vita, è pubblicato da Mondadori, 482 pagine, 22 euro. Quello di Morricone, che qui parla con un altro musicista, appunto De Rosa, è una carriera prodigiosa, premiata da un premio Oscar alla carriera e dall'Oscar del 2016 per la migliore colonna sonora, per quella scritta per il film di Hateful Eight, di cui avete ascoltato qualche nota. Nel libro Morricone coglie l'opportunità offertagli da questa lunga conversazione non solo per raccontarsi, ma anche per riconsiderarsi e per riflettere sul valore dei ricordi. Scrive infatti Morricone che entrare in contatto con i ricordi non significa solamente malinconia di qualcosa che sfugge via come il tempo, ma anche guardare avanti, capire che ci sono ancora e chissà quanto ancora può succedere. Si parte da una partita a scacchi, che è un gioco che ha per Morricone un forte punto di contatto con la musica. Il musicista spiega questo rapporto tra gli scacchi e la musica in queste righe, nelle quali appunto rievoca il rapporto che ha avuto con il regista Quentin Tarantino per il film con cui ha poi vinto l'Oscar. Quando stavo musicando l'ultimo film di Tarantino, The Hateful Eight, e leggendo la sceneggiatura, scoprivo la tensione che silenziosamente cresceva fra i personaggi. Pensavo allo stato d'animo che si prova durante una partita a scacchi. Contrariamente ai film di Tarantino, però, in questo sport non si sparge sangue, non ci si fa male fisicamente. Eppure, non è per niente freddo. Anzi, questo gioco è dominato da una tensione spasmodica e silenziosa. Qualcuno dice addirittura che gli scacchi sono musica silenziosa, e per me giocarci è un po' come scrivere musica. Anzi, a dirla tutta, per le Olimpiadi degli scacchi di Torino 2006, scrissi addirittura l'inno degli scacchisti. E poi Morricone ripercorre la propria vita, la carriera, una carriera che iniziò come trombista, sostituendo il padre durante la Seconda Guerra Mondiale, per poi diventare il musicista di tanti registi famosissimi. Prima di lasciarci vi ricordo che venerdì 27 maggio inizierà a Pistoia la 7ª edizione di Dialoghi sull'Uomo, un'iniziativa che ha come sottotitolo Incontri, Dialoghi, Spettacoli sul tema L'umanità in gioco, Società, Cultura e Giochi, il Festival dell'Antropologia Contemporanea. Il festival si protrarrà fino a domenica 29 maggio. Si parla dunque di giochi, parteciperanno degli scrittori e non soltanto, ci saranno anche dei film e il tema del gioco sarà declinato sotto molti aspetti. Per esempio si parlerà di quando il gioco si fa duro, lo sport, la mente e la fatica, è un incontro con Matteo Rampino, ovvero dei giochi vertiginosi di Vladimir Nabokov, che sarà introdotto da Alessandro Piperno, o ancora si parlerà del calcio come gioco profondo e denso di significati con Christian Bomberger e con Marco Ai, del gioco in borsa, azzardo e stregoneria a Wall Street, mentre Stefano Bartezzacchi terrà un incontro sul tema Il gioco, un'insopprimibile esigenza dell'uomo. E con questo ringrazio Luca Cremonese, redazione, Valeria Bernardi, regia. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronico, libro@radio24.it, e il nostro sito www.radio24.it, dove potete sempre ascoltare questa e tutte le altre nostre trasmissioni. Vi auguro buona serata e vi do appuntamento domenica prossima.